I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Barack Obama è a favore di una soluzione e sosterrà gli sforzi per arrivare a una soluzione. François Hollande crede che possano esserci anche delle proposte alternative. Angela Merkel vuole arrivare a una soluzione e vuole che tutto si concluda più presto, così come Matteo Renzi chiede di utilizzare il buon senso per risolvere la vicenda. Di cosa stiamo parlando? Ma ancora una volta della Grecia. Anche ieri tutti i leader del G7, come abbiamo appena ricordato, si sono detti favorevoli a una soluzione il prima possibile che faccia uscire l'area euro dall'impasse greco e che allontani il rischio di una diffusione, di un contagio anche al resto dell'economia globale, rischio molto temuto dagli americani. La domanda allora è molto semplice: se tutti sono d'accordo, perché allora non si arriva a una soluzione in tempi brevi? In effetti, al di là delle dichiarazioni ufficiali, tutti sono ormai convinti che la Grecia non ce la farà a ripagare il suo debito e dovrà essere necessario ristrutturare, come si dice in gergo, il debito greco, ossia allungarne la scadenza nel tempo. Quello che però l'Europa vuole evitare a tutti i costi è di perdere, oltre che i soldi che gli devono i greci, anche la faccia nei confronti dei greci. Il rischio infatti è che escano definitivamente come vincitori sia il premier Tsipras che il suo ministro delle finanze Varoufakis. Occorre allora trovare un accordo che permetta almeno formalmente all'Europa di dire che la Grecia si è impegnata per un piano di riforme. In questo modo, dopo aver fatto la faccia feroce, almeno Bruxelles non perderà completamente la faccia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. I nuovi dati sulla crescita dell'economia europea confermano che non si è trattato di un fuoco di paglia. Per quanto modesto, quell'aumento del più 0,4% nel prodotto interno lordo, cioè la ricchezza prodotta dall'Europa nei primi tre mesi dell'anno, confermano sostanzialmente che, grazie alla liquidità di Draghi e soprattutto alla domanda internazionale, le esportazioni sono state un po' la chiave di volta per lanciare l'Europa su una strada, ripeto, per quanto lenta, comunque di ripresa. Ma quali sono ancora i grandi problemi che frenano l'economia europea? Innanzitutto, come sappiamo, le economie periferiche. L'Italia è un po' più lenta delle altre, la Spagna è in ripresa più veloce, la Grecia sta continuando ad affondare, Germania, Francia e i paesi del centro Europa continuano a fare da locomotiva. Come riagganciarci? Sicuramente, chiuso il capitolo greco, speriamo positivamente entro l'estate, bisognerà affrontare il tema della crescita e soprattutto degli investimenti. L'Italia da sola non può farcela, come non può farcela l'Europa senza l'Italia, a riprendersi su un sentiero non soltanto di crescita industriale ed economica, ma soprattutto di riscoperta dei motivi di stare insieme. Paesi deboli e paesi forti hanno una convivenza difficile, ma è come nella società, paesi deboli e paesi forti, se non cooperano, certamente non si riprendono. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.